Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a tutti per la vostra cortesissima attenzione. E grazie a Max Ferrigno per la regia. E l'appuntamento rimane rinnovato domenica prossima alla medesima ora. Buona giornata. E grazie anche a Marco Andreoli da Milano che ci ha mandato dell'utile materiale. Ci sentiamo.